Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero, anche oggi un argomento che spero potrà affascinarvi, io sono sicuro che riesca a farlo, anche perché è qualcosa che in qualche modo ci riguarda, soprattutto quando andiamo al cinema e talvolta quando guardiamo la televisione, però spesso non lo conosciamo, quantomeno non entriamo dentro quel mondo di cui vi parlerò tra pochissimo, però è un mondo che ci appartiene, che ci fa anche sognare, spesso ci fa ridere e a volte ci fa anche pensare. Oggi parliamo di animazione, dei film d'animazione e di tutto quello che si muove grazie ai disegni e che riesce a muovere anche la nostra anima. Prima però, come sempre, i numeri, per esempio quello per i vostri messaggi, oggi vi serviranno perché oltre a raccontare quello che vorrete, come fate di solito, vi serviranno anche i messaggi per portarvi a casa dei biglietti. Poi vi spiegherò di cosa. Comunque segnatevi il numero 349-238-6666. Alle 11.30, anche oggi comunque giocheremo con il mistero in 24 minuti, come sempre la possibilità di portarvi a casa e speriamo stavolta fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Grazie agli indizi musicali che vi farò ascoltare dovrete arrivare alla soluzione, che può essere o una notizia della settimana, un personaggio molto famoso o qualcosa di particolarmente conosciuto. Il primo indizio di questa settimana è questo. La mia nave parte, mi allontano piano, io si riavvicinano le mie paure. È Fabio Concato con la nave, questo è il primo indizio, il numero verde per prenotarvi, potete farlo già da adesso, 800 24 00 24, si gioca come sempre alle 11.30. Oggi parliamo di animazione, di film d'animazione, scopriamo cosa c'è dietro questo mondo della matita, dei disegni che in qualche modo si muovono, parlano, raccontano e soprattutto ci regalano grandissime emozioni. E allora tra le tante canzoni che hanno caratterizzato i grandi film d'animazione ce n'è una che amo in modo particolare, cantata da grandissime artiste che erano sono Mariah Carey e Whitney Houston. It's hard to Non so se avete visto Il Principe d'Egitto, era un film animazione di qualche anno fa di DreamWorks se non mi sbaglio, e questa era When You Believe, è tanto per iniziare perché è una canzone che si adatta un po' al clima, anche se il testo forse è troppo zuccherato, però insomma fa sempre piacere ascoltarlo, il concetto è se nelle cose credi anche i sogni si avverano, insomma le solite cose che poi vediamo nei film d'animazione, in fondo. Riccardo Mazzoli, ciao, buona giornata. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Allora, Walt Disney diceva sempre che un buon disegnatore di animazione doveva essere anche un po' attore, così cominci a scrivere le tue note biografiche, perché tu in fondo sei un po' tutte e due le cose. Ma sì, in effetti, se analizziamo questa frase, c'è qualcosa di vero, cioè è tutto vero, perché un attore si esprime recitando con il proprio corpo, un animatore invece si esprime facendo recitare i propri disegni. Ma è proprio grazie alle conoscenze della recitazione che riesce a far recitare bene i propri disegni, quindi dentro devi essere anche un po' attore, giusto? No, io non so, sto scusando te, credo che sì, voglio dire, concordo. Assolutamente, però se ci pensi è una cosa abbastanza ovvia. Assolutamente, perché comunque i personaggi che voi disegnatori appunto fate vivere devono comportarsi in qualche modo, quindi devono avere assolutamente un'anima. E tu ovviamente hai cominciato con il disegno, quando sei passato poi al disegno animato, che forse è un passo un pochino più avanti? Sì, diciamo che il disegno animato lo si apprende solo con una scuola oppure con un buon insegnante, insomma, che ti inizializza un pochettino. Io dopo il liceo artistico ho fatto una scuola di cartoni animati che c'è a Milano, anzi in questa scuola adesso io dopo 20 anni ci insegno anche. Questo è il destino di molti, giustamente, è giusto. Perché... Poi adesso vi racconteremo anche che cosa Riccardo Mazzoli ha disegnato e ha animato, perché comunque film importanti li avete probabilmente visti al cinema, ma poi non soltanto. Riccardo, devo dire che ha fatto veramente molte cose, quindi spazzeremo un po'. Comunque mi stavi raccontando, perdonami, ti ho interrotto. No, stavo dicendo che... Il disegno animato lo si apprende dopo tanti anni di studi, anche se in realtà oggi si vedono tantissime cose animate che si possono fare molto velocemente con i software, mi viene in mente Flash o come software che ti permettono di creare delle immagini in movimento ma molto rudimentali. Invece l'animazione classica disneyana è complessa, si impara dopo qualche anno di studio e di applicazione. Ecco, vedremo un po' anche di capire un po' questa differenza, che la si vede visivamente, però anche tecnicamente ha una differenza interessante, sì. Ovvero l'animazione è quella classica, quella come che tu hai definito disneyana, sì. E poi invece l'animazione tridimensionale, quella creata con il computer, dove Pixar ovviamente è la padrona. Parleremo proprio di Mixer e di Pixar, ci sarà una mostra tra pochissimo a Milano, credo che cominci il 23, e adesso gli aggiornamenti sul traffico e poi ne parliamo. Il riposo del guerriero. È stata anche al MoMA di New York, e ha girato ed è arrivata a Milano, anzi sta per arrivare, credo che si apra il 23. Maria Grazia Mattei, buona giornata. Buongiorno a tutti. Ecco, Maria Grazia Mattei, la curatrice di questa mostra che vedremo al PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea a Milano, una mostra dedicata proprio al mondo Pixar. Sì, è una mostra che inaugura appunto il 23 novembre, quindi tra pochi giorni, qui c'è il countdown. È una mostra di 1400 metri dove il pubblico potrà godere, entrare diciamo così dietro le quinte di una produzione straordinaria che ha segnato, questa mostra celebra i 25 anni di animazione della Pixar. Ed è un modo proprio per entrare dietro le quinte di tutti i segreti della produzione di questa fabbrica dei sogni, come l'abbiamo definita. È una mostra che abbiamo veramente aspettato, siamo felicissimi che arrivi proprio qui a Milano, quindi in Italia, e sarà veramente un modo per tutte le persone appassionate, tutti quanti noi che siamo un po' anche, abbiamo vissuto questi anni di immersione, di visioni che i film e le storie della Pixar ci hanno raccontato, ma sarà anche un modo per quelli appunto, per i professionisti, per gli animatori, per i giovani, per veramente entrare e capire e cosa vuol dire un processo creativo che poi si avvale delle nuove tecnologie, della grafica computerizzata eccetera, ma che presuppone un background di conoscenza artistica, disciplinare, dal suono alla creazione di immagini, di disegni, di maquette. Quindi in mostra vedremo tutto questo in un percorso bellissimo che ci porterà proprio a respirare l'aria degli studios, della Pixar Animation Studios, ma per misurarci anche noi con questo mondo magico. Ecco, Maria Grazia, a parte, non so, bozzetti, disegni, immagino che vedremo, ci sarà anche non so, una parte più interattiva dove potremo in qualche modo non dico creare ovviamente un filmato, ma vedere quasi praticamente, metterci un po' le mani? Sì, diciamo che in mostra, al di là appunto dei disegni eccetera, che ripercorrono tutta questa loro flusso creativo, loro lo chiamano pipeline, quindi è come se entrassimo veramente nei loro studios, la sensazione del nuovo linguaggio, quindi della creazione dei wireframe, della creazione del computer eccetera, permea un po' tutta la mostra, quindi saranno molte proiezioni. Trattate, quindi anche l'immagine digitale è trattata come virgolette un'opera d'arte, ci saranno alcune installazioni a sorpresa che ci faranno da una parte immergere come l'artscape nelle atmosfere che questo team straordinario di creativi della Pixar riesce a creare ogni volta per ogni loro film, così come ci sarà un'altra installazione che a me piace tantissimo, si chiama Zootropio ed è una sorta di omaggio al protocinema, perché le prime figure si animavano con trucchi particolari per dare l'idea del movimento, dei caratteri, però è anche un sorta di anticipazione sul cinema del futuro. Io dico sempre che è una sorta di anteprima di quello che sarà forse il cinema olografico, cioè le immagini tridimensionali che escono fuori nello spazio. Ecco, tu pensa, noi saremo al cinema, in realtà i personaggi saranno in mezzo a noi, potrebbe essere. E un mio amico tra l'altro recentemente ha fatto una conduzione dove c'era lui e il suo ologramma, nel quale la gente poteva, alla fine la gente lo confondeva tra quello reale e quello olografico. Potrebbe essere veramente è un futuro, ma forse neanche così distante. Maria Grazia, a questo punto ci vediamo alla mostra, ricordo comincia il 23 novembre al PAG di Milano, finirà il 1 febbraio dell'anno prossimo. No, finirà il 14 febbraio. Più avanti allora. Scusa, correggo, abbiamo esteso un attimo qualche settimana in più. Ecco, quindi anche il giorno di San Valentino per così festeggiare il fidanzamento. Assolutamente sì. L'amore in primo piano. Grazie ancora, Maria Grazia Mattei. Buona domenica. A tutti. Io voglio farvi avere anche dei biglietti per la mostra Pixar, per cui se volete portarveli a casa, io nel corso di questa puntata vi farò ascoltare delle brevi clip tratte da film Disney. Dovreste mandare un SMS con il titolo del film e anche una brevissima descrizione della scena, perché sono comunque scene particolarmente conosciute di quel film. Il numero per gli SMS è 349-238-6666, quindi preparatevi che tra poco farò ascoltare la prima clip. Io volevo intanto ancora risentire Riccardo Mazzoli e prima Maria Grazia raccontava del mestiere. Oggi il mestiere di animatore in Italia com'è? Riccardo, tu lo fai da tantissimi anni, è un mestiere ancora si cercano persone? Spero di sì, ovviamente. Quali possibilità ci sono? E per prepararsi allora cosa bisogna fare? Come docente chiaramente della scuola di cinema di Milano devo dire di sì, però obiettivamente devo riconoscere che c'è stato un calo per quanto riguarda la ricerca degli animatori, perché come tu ben sai un'animazione prodotta in Oriente costa molto meno perché la manodopera costa meno, eccetera, quindi le grandi produzioni seriali vengono animate in Oriente, però in Italia c'è sempre la ricerca di disegnatori che studiano i caratteri dei personaggi, che studiano i background, che fanno gli storyboard. Quindi esiste un molto mestiere oltre il disegno, infatti. Certo, assolutamente sì. Oltre il disegno animato. Sì, certo. Sì, esiste tutta quella che si chiama pre-produzione, cioè tutta quella lavorazione che viene fatta prima che il film, il cortometraggio, il lungometraggio, la serie venga, animata, ecco. Ecco, poi tra l'altro entreremo un pochino più nel dettaglio proprio dell'animazione e intanto Riccardo, visto che tu sei un po' l'ospite che sarà con noi tutta la puntata, vorrei farvi sentire la prima clip per darvi i biglietti, a ogni persona verranno regalati due biglietti, quindi la coppia, la prima clip, mi raccomando, il titolo del film ed eventualmente anche una breve descrizione della scena, il numero è 349-238-6666, sono tutti film Pixar, sentiamo. Normale, che ne sai tu di cos'è normale? Chi in questa famiglia sa cos'è la normalità? Aspetta un attimo, signorina. Noi ci fingiamo normali, mamma, io vorrei essere normale, l'unico normale qui dentro è Jack Jack e porta ancora il pannolino. Che fortuna. Volevo dire essere normale. Chi sono i protagonisti di questa scena e da quale film è tratta? Gianluca Icardi, buona domenica. Salve, salve. Ciao Gianluca. Gianluca ha scritto un libro molto interessante, si intitola Pixar, la Disney del 2000, perché a un certo punto l'animazione è cambiata. È cambiata perché è diventata digitale. Digitale nel senso anche 3D, non soltanto digitale, perché forse Disney aveva già cominciato con Taro nella pentola magica, se non mi sbaglio, a inserire il computer nell'animazione grafica, chiamiamola così. Sì, la Disney aveva già in mente, è per quello che poi la Disney si è interessata alla Pixar, sì, in origine. E poi è interessante, forse se vuoi, proprio andare alle origini di quello che è successo. Come no? Tra la Disney e la Pixar. Perché ci sono degli elementi che non... così magari adesso sai, è molto facile parlare, non so, di Toy Story 3, di Cars 2, però all'origine era stata interessante, insomma, no? come è nata. Ecco, no, raccontacela a questo punto ci hai messo. È certo che è interessante. Perché, molti collegano al 3D perché insomma, il boom del 3D ha finito negli anni 2000, no? Però qui stiamo parlando degli anni 70, no? Che era uno scenario completamente diverso. Hollywood, lo scenario degli anni 70 di Hollywood è, come dire, la Hollywood che ha smesso di essere, no, la grande Hollywood della Golden Age, quindi è l'Hollywood degli autori, no? E quindi ci sono questi grandi nomi che sono all'origine, no, della fondazione della Pixar e di questa rivoluzione del digitale, del 3D. Il primo nome che viene fatto è George Lucas, no? George Lucas, che è, diciamo, forse il nome che ha portato il computer nel cinema, quando ha fondato la Industrial Light & Magic per creare gli effetti speciali di questa. Ecco, perché infatti dietro Pixar ci sono tantissimi nomi, c'è appunto Lucas e poi Steve Jobs anche. C'è Steve Jobs, che appunto magari ricordiamo proprio perché... Certo, assolutamente. Sì, diciamo che è stato un rimpallo tra loro due, insomma, tra la loro visione del futuro dell'entertainment, del futuro del cinema, che ha creato questa cosa, perché appunto... Per farla breve, Lucas aveva creato Industrial Light & Magic. Industrial Light & Magic aveva questa divisione, una divisione prettamente computeristica, che aveva fatto delle cose, che era guidata da Edwin Catmull, che è, insomma, è, diciamo, fondatore, diciamo, della Pixar, no? È stato il CEO della Pixar finora. E questa divisione era, diciamo, dedicata agli effetti speciali per il cinema dal vivo, no? Quindi aveva fatto, che ne so, il pianeta Genesi di Star Trek 2, Riva di Cannes, oppure Piramidi di Paura, quando c'è quel personaggio che è il primo personaggio computerizzato, questo cavaliere fatto di vetro, no? Ecco, cioè, a un certo punto tutto si sposta, nel senso, si pensa, con Toy Story credo, di poter fare addirittura un lungometraggio, tutto sì, con animazione tridimensionale fatta al computer, chiedendosi se poi il pubblico l'avrebbe apprezzato nel corso del tempo, e credo che abbia apprezzato anche molto, poi è stato un grande successo. Sì, la sfida del lungometraggio era appunto se il pubblico fosse stato in grado di, come dire, reggere visivamente. Sì, sopportare, no? Diciamo. Sopportare, sì. E decifrare visivamente, perché mi ricordo che, non so, i miei genitori, che vengono da un'altra generazione, avevano delle difficoltà a decifrare quel tipo di animazione. Perché arrivati dall'educazione del tratto grafico disneyano, chiamiamolo bidimensionale, manuale, sì, c'è molta differenza. Gianluca, io volevo farti questa domanda sulla differenza fondamentale fra Disney e Pixar, sulle storie, nel senso che, e questa è proprio una cosa che ti chiedo, forse anche un po' un punto di vista personale. Sì. Allora, Pixar secondo me nelle storie è sempre stata particolarmente intelligente, legata a un pubblico adulto, anche con battute che necessariamente sono comprese da un pubblico adulto, e se vuoi anche un po' i primissimi corti, dove i giocattoli prima di Toy Story vengono addirittura molestati dai bambini, no? Forse Disney mai avrebbe fatto una cosa del genere. Ecco, tu credi che quando, e dal momento in cui Disney ha comprato Pixar, si sono messi insieme, le storie si siano un po' edulcorate o siano riuscite a mantenere quell'aggressività, chiamiamola così, Pixar, che aveva caratterizzato i primi anni? No, io credo che il discorso Pixar, che è il discorso di John Lasseter, che è l'ultimo grande nome che facciamo, no, è rimasto sostanzialmente uguale, perché se tu guardi l'ultimo film di grosso successo critico, che è Toy Story 3, sì, in Toy Story 3 c'è una scena che è molto, molto dura anche per un bambino, no? I giocattoli che stanno per morire si abbracciano, certo, perché non hanno più niente da fare se non andare alla morte insieme. Quella è una cosa che effettivamente non è da film Disney tradizionale. Quindi dici che è rimasta comunque questa impronta? È rimasta, però naturalmente ci sono dei film Pixar più adulti, dei film Pixar forse più diretti a un pubblico infantile, come per esempio Nemo, che è pure un grande film, però si capisce che è più diretto, no? Ai papà che portano i bambini al cinema, sostanzialmente. Ecco, forse quando c'è stato il connubio ci si era mossi un po' in quella direzione e adesso si è tornati a riprendere un po' le redini della vecchia Pixar. Ma non so, essere... è una sensazione. Sì, può essere che l'Asseter, che poi si è trovato, no? Quando sostanzialmente Steve Jobs ha venduto la Pixar alla Disney e la Pixar è diventata padrona della Disney artisticamente, no? Perché Lasseter è diventato il direttore artistico di tutti i film di animazione, tutto il settore di animazione. Quindi magari a quel punto Lasseter ha dovuto mediare un attimo, no? Tra le due visioni, tra quella, diciamo, un po' più raccontiamo storie per raccontare storie e invece quella della Disney che raccontiamo storie per divertire i bambini. Esatto, infatti, poi esatto, le due cose, no? Poi si sono, grazie al cielo, un po' separate e spero che continuino in quella direzione, almeno questo è l'augurio che mi faccio. Pare io. Che il nuovo film, malgrado sia la prima favola, la prima insomma, ambientazione favorita, Brave, pare che sia molto adulto diciamo nelle ambientazioni. Vogliamo come storia almeno un nuovo Wall-E da quel punto di vista dell'adultità, se si può dire, del sì. Film. Gianluca, io ti ringrazio molto, vi ricordo il libro Pixar Inc., la Disney del 2000. Grazie Gianluca Icardi, buona domenica, ciao. E, c'è la pubblicità tra pochissimo, basta per quanto riguarda gli sms con la clic che abbiamo messo perché la risposta è arrivata già da un po', si tratta degli incredibili e non degli invincibili, come qualcuno ha scritto, e tra pochissimo continuiamo a parlare di animazione. Il riposo del guerriero. Nel riposo del guerriero oggi parliamo di animazione, c'è Riccardo Mazzoli che è un animatore, ormai posso dire storico, Riccardo. Beh, perché... dai, storico mi fai sembrare un Matusalemme. Ah beh, però cos'è, 25 anni che fai questo mestiere? Sì. Mica sono pochi, 24, adesso al di là di 24, però, l'anno prossimo festeggi. Allora, tu hai fatto non solo animazione, dicevo per il cinema, Volere volare, La gabbia nell'al gatto, ne cito due, ma ne hai fatti tantissimi altri. Diciamo che ho fatto tutti i lungometraggi quelli che sono stati fatti in Italia. Per cui ma è una bella soddisfazione, perché sì, in Italia perché... siamo talmente pochi come animatori che immagino. Quando viene messo in cantiere un lungometraggio, si parla di un'ora e un quarto di animazione come minimo, e vengono interpellati tutti, perché altrimenti noi non abbiamo le forze lavorative degli Stati Uniti oppure dei paesi dell'est. L'Italia è un piccolo paese con tanti professionisti però sparpagliati per tutto lo stivale. Ecco, allora qual è la grande differenza appunto di un'industria come Pixar, dove immagino che siano tutti all'interno della stessa azienda, dico bene, funziona beh, certo, così? Assolutamente sì, noi siamo, t'ho detto, siamo sparpagliati, ognuno nella propria città, ognuno nel proprio studiolo, e quando un regista italiano insomma mette in cantiere un lungometraggio è chiaro che tutti... convergiamo verso di lui. Ecco, questo però significa anche avere delle differenze, perché ognuno di voi in poche parole fa un pezzo di film, da quello esatto, che esatto, una capito. Sequenza o più di una sequenza. Ecco, poi entriamo nel dettaglio di quanto tempo ci vuole per costruire una sequenza di tot minuti di film. Ma torniamo alle differenze. Esistono quindi anche delle differenze di tratto, per quanto uno poi tenti di, in fondo, copiare un tratto, no? Perché bisogna seguire una linea, per forza di cose. Non è solamente un tratto, ma è anche una tridimensionalità del personaggio. A me viene in mente quando facevo il direttore artistico di una piccola produzione, c'era una ragazza, tornando al discorso attori-animatori, no? Sì. Che aveva proprio un suo modo anche di comportarsi, era molto timida, camminava piano, passetti piccoli, e io le sue animazioni le riconoscevo subito perché i suoi personaggi li muoveva come se stessa. Quindi non è solo un fatto di segno, è un fatto proprio di dinamica legata anche che ha il carattere dell'animatore. Ecco, però nel momento in cui gli animatori insieme, come dici tu, distanti nel caso italiano, devono costruire tutti, lavorare tutti sullo stesso film, dovrebbero essere il più possibile uniformati, se no avremo esatto. Tanti... Esatto, è qui che diciamo il compito del supervisore dell'animazione deve essere severo e insomma deve avere un occhio molto fino per cercare di capire quali sono le differenze tra l'animazione di un animatore di Milano e quella di un animatore di Napoli, per fare un esempio. Sì, perché comunque cambiano delle cose, io non me ne sono mai accorto, ecco, quando tu mi raccontavi di questa differenza, non so, prendo per esempio La gabbianella e il gatto, mi è piaciuto molto, per questo lo cito, non mi sono accorto di questa differenza, dovrei vederlo chiaramente con un altro occhio e forse la seconda e terza volta, ma tu dici invece che ti rendi ovviamente conto. Io sì, ma non solo perché ci ho lavorato, perché conosco perfettamente gli animatori che ci hanno lavorato e quindi vedo dietro il personaggio, vedo proprio la faccia dell'animatore, quindi riesco a riconoscere. questa cosa è una cosa solo, penso solo mia. Sarebbe bello analizzare un film con te e farsi raccontare qui c'è questo, da qui in qua comincia quest'altro, eccetera. E, Riccardo, c'è Serenella Di Marco. Ciao Serenella, buona giornata. Ciao, buongiorno a tutti. Ho scritto un libro molto interessante perché c'è un'altra realtà. Adesso noi parliamo di grandi realtà americane, ovviamente, sono quelle che vediamo al cinema, e sono delle realtà straordinarie che hanno anche preso premi molto importanti. Certo. Ed è il fumetto d'animazione in Medio Oriente. Tu hai scritto questo libro, Persepolis, Walzer con Bashir e altri, nuovi immaginari grafici dal Maghreb all'Iran. Esatto. Allora, Serenella, quali sono le grandi differenze, a cominciare dalle storie, perché forse proprio attraverso la novella grafica, chiamiamola graphic novel, poi che diventa animata, nel caso di Persepolis, faccio un esempio, si raccontano le storie, anche e spesso drammatiche, che si vivono in quei paesi. Sì, esatto, infatti la differenza sostanziale sta proprio appunto tutta e si gioca tutta nella scelta poi delle tematiche, che spesso si legano ad urgenze non soltanto individuali ma anche collettive, che sono legate quindi alla società, al contesto in cui questi poi prodotti vengono in qualche modo realizzati. E quindi tra Persepolis, Walzer con Bashir e anche tutte le riviste con cui sono venuta anche a contatto, come Samandal per esempio in Libano o Tok Tok in Egitto, che racchiudono tutta una serie di fenomeni, di protagonisti di quest'area presa in esame, quello che viene fuori è un contatto molto più diretto con il presente e con il presente che si vive. E quindi è spesso anche una forma espressiva utilizzata da un lato per la denuncia e dall'altro spesso anche attraverso una satira molto pungente che miri in qualche modo a veicolare un messaggio che deve essere in qualche modo condiviso dalla società che diventa destinatario poi di questi prodotti. Ecco, Serenella, ti chiedevo, secondo te il fatto di usare l'animazione, no, per raccontare le cose che non funzionano, quindi per in qualche modo condannare anche i regimi piuttosto che la politica che in quel momento sta esercitando, secondo te è un modo per rischiare di meno, tra virgolette, perché magari i poteri forti considerano meno importante un film d'animazione piuttosto che un film fatto con la stessa storia ma con degli attori veri e propri? Certo, no, guarda, penso di no, anzi credo che si sfruttino le potenzialità in qualche modo immaginifiche anche innescate dall'animazione. Sì. Perché permettono un distacco, prima di tutto, e questo è chiaro in Walzer con Bashir, per esempio, di Harry Folman, permettono un distacco prima di tutto emotivo dal dramma che si vive e la possibilità comunque di riviverlo e di riconfigurarlo in termini possibili attraverso appunto l'immaginazione. Dall'altro lato, sì, probabilmente all'inizio da parte anche dei regimi sono accettati con meno paura, laddove si pensa che il cartone animato sia un semplice strumento di intrattenimento. Esatto. E quindi all'inizio magari ci si pone in maniera diversa rispetto a un film invece che chiaramente può mettere in gioco personaggi reali. Assolutamente, anche perché sono veri e propri film di denuncia, per cui che io invito anche a vedere. Volevo parlare del tratto, Serenella, perché il loro tratto è assolutamente particolare, nuovo, e credo che abbia veramente dato una sferzata di novità anche a quello che è il tratto, chiamiamolo, occidentale, per intenderci. Esatto. Sì, tra l'altro infatti mi era interessato anche questo aspetto prettamente poi stilistico nell'affrontare la possibilità di questo libro, no? La possibilità di scrivere un libro di questo tipo, e cioè il fatto che effettivamente il tratto medio orientale, la genesi del tratto medio orientale nel fumetto e nell'illustrazione, che poteva giovare da un lato dall'arte, no? Dell'arte islamica calligrafica, specifica che quindi ha una storia e un passato, una tradizione molto forte e che ha inciso in qualche modo una dinamica stessa nel tratto poi degli scriba prima e degli illustratori adesso, e poi vedere come questa si incontrava nella relazione con la storia del fumetto occidentale, quindi come vedere, cioè vedere, andare ad analizzare come queste due componenti, quindi orientale e occidentale, potevano andare a fondersi per creare poi invece un tratto unico, originale, speciale, proprio tipico adesso caratterizzante l'illustrazione, il fumetto e l'animazione medio orientale. Ed è un tratto originale, un tratto molto sintetico. Devo dire che spesso, per quanto riguarda le donne, posso citare Marjan Satrapi come prima, o Zeinab Rashed, Maya Zankul adesso dal Libano, il loro tratto è particolarmente in qualche modo più decorativo, più sinuoso, ecco, rispetto invece a quello maschile invece degli illustratori fumettisti del Medio Oriente, che hanno caratterizzato il proprio stile con un tratto più duro. Ecco. E quindi sì. C'è proprio la differenza e si può notare. È molto interessante come le donne abbiano un ruolo fondamentale, esatto, nell'animazione orientale, e lo cercheremo di discuterlo anche oggi con un altro libro, se abbiamo tempo, perché il tempo non è tantissimo e avremo tante cose da raccontare. Certo. Serenella, io ti ringrazio molto, anche perché io vorrei invitare anche con questo libro gli ascoltatori che non avessero visto questo genere di film animazioni a farlo, perché sono particolarmente interessanti e anche molto intensi. Fumetto e animazione in Medio Oriente. Persepolis, Walzer con Bashir e gli altri nuovi immaginari grafici dal Maghreb all'Iran. Serenella Di Marco, Tunue Edizioni. Grazie ancora, ciao Serenella. Grazie a te, grazie a tutti, ciao. Ciao, io vi farei sentire un'altra clip intanto per altri due biglietti per la mostra Pixar, 25 anni di animazione al PAC di Milano dal 23 di questo mese. Eccola qui. Buon pomeriggio, io mi chiamo Russell e sono un esploratore della natura selvaggia della tribù 54, 12° branco. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore? No. Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No. Potrei aiutarla ad attraversare il cortile? No. Potrei aiutarla ad attraversare il portico? No. Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa? No, me la cavo benissimo. Io rido semplicemente ascoltando, perché mi ricordo la scena. 349-238-6666, di che scena si tratta, di quale film, Pixar ovviamente. Riccardo Mazzoli, quando si costruisce un personaggio, stavo pensando a Russell che abbiamo appena ascoltato, il cicciottino, eccolo. Esatto, qua. Sì. Quanto tempo ci vuole? Quanti se ne scartano? Una valanga, immagino. Tantissimi. C'è una ricerca, innanzitutto si parte dalla realtà. Quindi magari è capace che il disegnatore ha incontrato realmente un personaggio che lo ha ispirato. Infatti Russell esiste, assolutamente, per dire, no? Sì, così. E poi da lì si cominciano ad aggiungere tratti, caratteristiche. Sì, da lì poi si parte tutta una ricerca grafica per capire, diciamo, come deve essere vestito, il colore della pelle, tutto, insomma. Ecco, anche per animazione tridimensionale si parte dal tratto grafico manuale, ovviamente. Sì. Sì, lo dimostrano i numerosi libri che sono stati pubblicati di Toy Story, di Monster. Io ne ho uno bellissimo di Monster dove ci sono tutte le preparazioni grafiche precedenti allo sviluppo tridimensionale dei personaggi. Ecco, intanto mi ricordo, adesso non ricordo il nome purtroppo, ma che l'animazione dei peli di Sullivan, che era il mostrone quello, sì, tutto peloso, quello blu, era, sì, di un italiano, particolarmente apprezzato, perché era la prima volta che in un film d'animazione 3D, appunto con l'elaborazione grafica al computer, si vedevano i peli così in modo dettagliato, perché si muovevano tutti ognuno per conto proprio, come se fossero veri e propri. Veri, quindi sì. È stata una rivoluzione. Resta con noi come sempre Riccardo, gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo a parlare di animazione. Il riposo del guerriero. E anche per quanto riguarda la seconda click, vi ho fatto ascoltare il film, era Up, l'incontro tra Russell, che è uno scout, e Carl, che è il personaggio del film, e le risposte sono arrivate, per cui fermatevi, e poi chi vincerà verrà contattato. Dico così semplicemente perché i messaggi sono centinaia. Le risposte che accettiamo sono quelle con il titolo del film e una brevissima descrizione della scena che vi abbiamo fatto ascoltare. Andiamo avanti, Riccardo Mazzoli. Allora, stiamo parlando dell'animazione, ovviamente con te, partiamo anche per quanto riguarda l'animazione fatta al computer, partiamo comunque da un segno grafico, e sì. Poi cosa succede? Si costruisce tridimensionalmente il personaggio? E poi qua ci sono due scuole di pensiero. Sì. Ci sono alcuni animatori che preferiscono vedere prima fisicamente il manichino tridimensionale, sviluppato in plastilina o in qualcosa che puoi toccare. Sì, si fa un pupazzetto, ecco. Perché quel pupazzetto poi può essere modificato, diciamo, manualmente. Posso spostare la testa, posso allungare le dita, eccetera. Invece ci sono modellatori che vanno direttamente sul computer e si plasmano il modello con i software dedicati. Ecco, quindi partendo in questo caso dal disegno bidimensionale, poi sarà il computer a crearne la tridimensionalità. Esatto, senza avere un modello tridimensionale reale. Esatto. Tu hai una scelta fra le due cose, secondo te? Non mi occupo di animazione tridimensionale, sì. Io faccio cartoni classici. No, questo lo so, però secondo te quando viene sfruttata un'azione piuttosto che l'altra, c'è una differenza secondo te poi nel risultato? Visto che comunque... No, sostanzialmente no, è solo un fatto, diciamo, di libidine personale, chiamiamola così, nel vedere il proprio personaggio sviluppato tridimensionalmente, averlo lì appoggiato sul comodino, no? Piuttosto che averlo solo nel computer. Ecco, lo dico anche perché Riccardo ha creato dei pupazzi che poi sono stati utilizzati per la televisione e quindi ha reso tridimensionali fondamentalmente i suoi disegni. Sì, e poi... sì, quello è vero. I pupazzi erano una serie di, di pupazzi, diciamo, barzellettieri che andavano in onda su Junior TV, ma si parla di 15 anni fa e più, Però tornano, perché sono gli sgommati, sono tornati, e credo che sia un gran bel programma, assolutamente vi invito anche a seguire, ne avevamo anche già parlato nel riposo. Vediamo se ti ricordi il cetriolone. Il cetriolone degli sgommati, sì. Cioè, no, il cetriolone no, è nostro. Scusami, no. Questo no, io avevo fatto una... Allora, dovete sapere, nel palco adesso Riccardo ha toccato, dovete sapere che la prima trasmissione nazionale che io feci si chiamava USA Today ed era il 1990, non mi ricordo, Riccardo, ti ricorderai tu, io non mi ricordo l'anno. 90, 91 e 92 l'ultima edizione. Ecco, allora io arrivo un po' prima perché ne ho fatte 4 e una delle ultime edizioni, l'ultima mia, prima di passare a Italia 1, era co-condotta prima con Giorgio Mastrota e poi con Riccardo Mazzoli. Ecco, quindi questo è, per questo Riccardo lo conosco proprio da un punto di vista non legata al tratto grafico, ma legata all'essere attore del quale si parlava proprio all'inizio. Diciamo che se Stefano Gallarini avesse la voce di Pippo Baudo potrebbe dire: l'ho scoperto io Mazzoli, grande artista. No, è vero, no, perché lo sai davvero. Io non so se ho una tua caricatura, prima o poi mi dovrai fare, perché sei molto bravo anche da questo punto di vista, che Riccardo ha fatto veramente molte cose. Francesca Dragotto, ciao, ben ritrovata, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, fa molto ridere il fatto che quando noi contattiamo Francesca e raccontiamo l'argomento, lei riesce sempre a trovare la linea per parlare della nostra lingua partendo dall'argomento. Oggi è l'animazione e questa è la mia sfida. Vai Francesca, buongiorno. Due possibilità. La prima riguarda la scelta dei nomi, soprattutto in una prospettiva traduttologica, perché è ovvio che nel momento in cui dobbiamo distribuire un cortometraggio o un lungometraggio ci si pone il problema della cultura d'arrivo. Però ho deciso di lasciare eventualmente per un secondo momento questa pista e di concentrarmi esclusivamente su un nome. Parlo del film Alla ricerca di Nemo, che è un vero e proprio inno alla conoscenza, diciamo che è l'odissea della Disney Pixar. Il nome è la chiave che ci permette di rileggere il film in una prospettiva del tutto intertestuale e ci permette addirittura di risalire all'Odissea, in particolare all'episodio di Ulisse e Polifemo, perché, come tutti sapete, Ulisse nel suo girovagare, Ulisse in greco Odisseo, nel suo girovagare per tornare ad Itaca, si imbatte nella terra dei ciclopi. Uno dei più famosi ciclopi era appunto Polifemo, quello delle molte parole tradotto letteralmente. Ulisse si fa ospitare da Polifemo, lo fa ubriacare e lo acceca. Nel momento in cui Polifemo inizia ad urlare per essere stato accecato, Ulisse, che preventivamente gli ha detto di chiamarsi nessuno, Utis letteralmente non uno, riesce ad avere la chiave per aggirare la violenza, la brutalità di Polifemo. Perché? Perché arrivano gli altri ciclopi che gli dicono: che ti succede, per quale motivo stai urlando così? E Polifemo risponde: nessuno mi ha accecato. E questo fa sì che Ulisse riesca a fuggire, gli altri ciclopi non intervengano per fermare la fuga di Ulisse e alla fine di questa querelle si afferma la vittoria dell'intelligenza su quella della forza, della brutalità. E la chiave di tutto questo è appunto il nome. Perché? Perché nessuno, per l'appunto in latino, si dice Nemo. Quindi sono convinta che la scelta di Nemo, vista anche la trama della storia, sia legata al fatto di voler ricostruire un'Odissea in chiave moderna, non in chiave antropomorfica, ma bensì ambientata nel mondo oceanico. Ecco, Francesca, così siamo senza parole. Lasciamo un po'. Grazie, ciao, buona domenica. Grazie a voi. Ciao, ciao. Riccardo, hai sentito la storia? Sì, sono incantato. Assolutamente, lo siamo tutti. Ma allora a questo punto mi viene una domanda. Abbiamo un minuto e mezzo per raccontare la risposta. I nomi dei personaggi, come si fa a costruirli? Allora, tornando ai più pazzi, c'erano i due vecchietti e ti dico solo che si chiamavano Rimba e Rintro. Questo perché dentro un nome c'è tutta una personalità, un carattere. Nell'animazione sì, poi in modo particolare sicuramente. Senti, invece l'animazione, il tratto grafico non animato, quindi il fumetto. Sì. Per dire, e a parte la grande differenza, che è quella appunto una animata, l'altra no, ma emotivamente qual è secondo te la grande differenza per chi lo disegna? Ma sostanzialmente un disegnatore di fumetti deve comunicare in un disegno solo tutto uno stato d'animo, una particolare, diciamo, un particolare momento anche di azioni movimentate, quindi è molto difficile. È più difficile, quindi secondo te? Secondo me è molto più difficile, cioè bisogna avere una preparazione, diciamo, un po' più grossa per sintetizzare in un disegno solo anche quello che non ci sarebbe, è il movimento, e quindi devi poterlo far percepire. Mentre un animatore, diciamo, è un pochettino più facilitato perché ha a disposizione una sequenza. Chiaro, quindi io vedrò che cosa succede, è un po' come succede tra una fotografia e poi il film vero e proprio. Grazie Riccardo, resta con noi, c'è il GR e poi torna Riposo del Guerriero. Il Riposo del Guerriero. Ho scelto questo promo proprio perché è legato ovviamente all'argomento di oggi, parliamo di animazione. Siamo partiti da questa mostra Pixar 25 anni di animazione, si terrà al PAC di Milano dal 23 di questo mese fino al 14 febbraio. C'è ancora Riccardo Mazzoli, il nostro animatore, qua in onda. Allora Riccardo, prima di così chiudere con te questo momento dedicato all'animazione, volevo far sentire un'altra clip, come sempre la risposta, il titolo del film e anche una brevissima descrizione dei personaggi o della situazione. Eccola qua. Del mio mancato incontro con il comando stellare. Tu sei solo un giocattolo! Tu non sei il vero Buzz Lightyear, sei un pupazzo meccanico! Tu sei solo un balocco per bambini! Sei uno strano e triste omuncolo e ti compatisco. Addio. Ma sì, va al diavolo, lunatico! 349-238-6666, il numero dei vostri messaggi. Vi ricordo che potrete ricevere due biglietti per la mostra 25 anni di Pixar. Complimenti a Fabrizio Frizzi per il doppiaggio di questo film. È uno dei pochi attori che non fanno i doppiatori di professione ad essere stati in grado davvero di doppiare bene. Perché ultimamente, Riccardo, non so cosa tu pensi di questo, ma ultimamente c'è una linea che è quella di seguire un po' gli americani, quindi far doppiare i film film agli attori o ai personaggi famosi che però non sanno doppiare e quindi rovinano completamente l'anima del personaggio. Ma mi sbaglio o meno? Mi viene in mente DJ Francesco, che ha dato la voce a un film che non è Pixar ma è Robots, non so se tu... Sì, io non sono riuscito a vederlo per via della voce. Assolutamente sì, ma vale anche per Rio, adesso voglio dire, perché ecco. Fabio De Luigi comunque sia non è stato, secondo me, non è stato bravo a doppiare, non soltanto lui in quel film. Cioè, voglio dire, il doppiaggio è particolarmente importante e dà veramente l'anima, il carattere al personaggio. Quindi... Non solo, Stefano, ma se noi prendiamo per esempio Lili Vagabondo, no? Sì. L'edizione in DVD che è uscita è, diciamo, quella col doppiaggio, l'ultimo che ha fatto con Claudio Amendola, eccetera. Non esiste la versione DVD con il vecchio doppiaggio, quello storico, quello che abbiamo visto noi da bambini al cinema. E questo lo trovo di una gravità assurda. Sei d'accordo? Sì, perché tu dici l'anima è talmente importante, piuttosto lo si vede in lingua originale e allora è diverso. Esatto. E quindi va bene, insomma, questa è una linea che purtroppo si segue. Dico purtroppo perché il risultato a volte non è quello sperato, c'è niente da fare. Ma magari sono io che... Sai che anche Riccardo Massara ha doppiato qualcosa? Io ho doppiato la serie di Bruno Bozzetto, sì? Psico VIP, che diciamo presa dal film VIP Mio fratello superuomo, non so se tu l'hai visto, di Bruno Bozzetto, dove c'era il supereroe con il fratello piccolino con gli occhiali, no, un po' sfigatello, no. Praticamente Bruno Bozzetto 2 anni fa ha fatto questa serie per la Rai, sì. Va in onda adesso in replica su Rai Gulp, ed è una serie di 26 episodi di 5 minuti l'uno, dove c'è questo personaggio, questo mini VIP, che aveva la voce di Oreste Leonello nel film del 68, e io ho doppiato la serie invece imitando la voce di Oreste Leonello. Ecco perché tra le tante cose Riccardo Mazzoli fa anche l'imitatore. Esatto. Però vi invito ad andare sul suo sito, che è riccardomazzoli.com, poi ti riavremo come ospite, perché le cose da raccontare sull'animazione sono tantissime. Tra l'altro non sono riuscito a parlare di 2 libri, però voglio citarveli, sperando poi di avere la possibilità di sentire gli autori in una prossima puntata. Una è Matilde Tortora, che ha scritto Le donne del cinema di animazione, è appunto un libro che racconta di quanto le donne, come accennavamo prima, siano importanti e lo siano anche state nel passato e lo sono anche nel presente nel cinema di animazione. E poi Francesco Calderone, che invece ha scritto Anime e manga, alla scoperta del fumetto e dell'animazione giapponesi, edito da Caravaggio Editore, anche perché i manga hanno una loro storia da raccontare anche in questo senso. Poi avremmo dovuto avere anche il cinema d'animazione francese, devo dire che molto si sarebbe voluto parlare, per adesso fermiamoci qui. Grazie Riccardo Mazzoli. Grazie, e buona domenica. Molto, lo sai che ti voglio bene in enorme. Grazie, bravo per quello che fai. riccardomazzoli.com. sono arrivate le risposte anche per la clip che vi ho fatto ascoltare, era Toy Story 1 e non il 2 o il 3 come qualcuno ha scritto, e anche qualcun altro, quindi si porterà a casa altri 2 biglietti per la mostra 25 anni di Pixar. Adesso vi faccio ascoltare un'altra clip. Gli SMS 349-238-6666, il titolo del film e una breve descrizione della scena. Buongiorno Rose, mia succulenta lumachina da prato. Chi andiamo a spaventare quest'oggi? Wazowski, non hai archiviato le pratiche ieri sera? No, accidenti a queste pratiche. Non sarebbe molto più semplice se volassero via? Che non succeda mai più. Sì, beh, senz'altro. Cercherò di essere meno distratto. Guarda che ti tengo d'occhio, Wazowski. Io ti tengo d'occhio. È pazzo. Sempre! Eccola qui, la voce da quella di Loretta Goggi, del personaggio Rose, il film e la scena. 349-238-6666, siamo legati al mondo Disney Pixar oggi anche, per cui parliamo di videogiochi. Video game. Per lo spazio dedicato al mondo dei videogiochi, 2 sono i titoli legati al mondo Disney Pixar che trovate sugli scaffali in questi giorni. Iniziamo con Disneyland Adventures, che è disponibile esclusivamente per Xbox con Kinect. Andiamo! Per la prima volta avrete la possibilità di interagire con il parco a tema più famoso del mondo senza lasciare il salotto di casa vostra. A Disneyland vi aspettano Topolino, Pippo, Paperino e tutta la banda dei film Disney più famosi per un'avventura che vi vedrà impegnati in sfide alla portata di tutti. Rivolto principalmente a un pubblico giovane, ovviamente, il titolo vi permette di visitare l'intero parco godendovi tutte le attrazioni più famose. Quindi, per chi avesse visitato il parco, ci sono Alice, il volo di Peter Pan, Splash Mountain, la casa dei fantasmi, Pirati dei Caraibi e naturalmente l'imperdibile Small World. Benvenuto in It's a Small World, la crociera più felice che il mondo abbia visto. In questo viaggio conosceremo molti luoghi nuovi e incontreremo diverse culture. Allora che stai aspettando? Gira la leva sulla barca e mettiamoci in viaggio. Il fatto è che tutte queste attrazioni non saranno come quelle che trovate al parco reale, ma una sorta di rivisitazione interattiva dove è richiesto il movimento del corpo per compiere determinate azioni. E anche per muoversi al parco dovrete usare il corpo. Indicando la direzione con il braccio, il vostro personaggio virtuale segue le vie del parco e in ogni momento potrà fermarsi, guardare intorno e interagire con i personaggi chiedendo autografi, dando il 5, scattando fotografie e molte altre cose ancora. Ecco un piccolo regalo! Una macchina fotografica magica! Perché non mi scatti una foto? Così la provi subito! Ecco, mi metto in posa, così puoi scattare la foto, ok? Potrete visitare i negozi e comprare oggetti che vi serviranno per proseguire l'avventura, guadagnare spille e trofei. E soprattutto potrete volare seguendo le orme di Trilli, sempre che riusciate a recuperare abbastanza polvere di fata. Fantasmico! Disney Universe, invece, disponibile per PC, Wii, Xbox e PlayStation 3, è un gioco a piattaforme e azione ispirato ovviamente al mondo Disney Pixar. Con addosso il costume di Wazowski di Monsters & Co. piuttosto che quello di Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi, dovrete andare in giro per mondi diversi a caccia di monete, stelle e oggetti speciali che vi permetteranno di andare avanti nella storia. Ciao! Benvenuto nel nuovo incredibile mondo di Disney Universe. Io sarò la tua guida e mi chiamo Vic, cioè Virtual Information Cube. Ehi! E tu? Chi sei? Io sono Hex, il capo dei capi, il nuovo padrone di Disney Universe. Ora diamo il via alla festa! Il sistema è mio, ora comando io. E questo gioco avrà un solo vincitore. Me. Molte le aree da esplorare e divertenti le cose da fare. Il gioco è rivolto a un pubblico eterogeneo, soprattutto per chi come me rimpiange un po' i vecchi Sonic o Rayman, che fra l'altro stanno tornando di moda, ed è anche un fan di Pixar. I primi sei mondi di Disney Universe sono Monsters & Co., Il Re Leone, Aladdin, Alice in Wonderland di Tim Burton, Pirati dei Caraibi e Wall-E. Gli altri invece sono scaricabili a parte, ma solo per chi ha Xbox o PlayStation 3. Che la sfida cominci! Ognuno dei mondi di Disney Universe ha delle caratteristiche specifiche che richiamano le ambientazioni dei film, il tutto arricchito da un tocco Disney Universe molto particolare. 3, 2, inizia sfida! In Pirati dei Caraibi, per esempio, si gioca a Londra, sulla nave di Barbanera Queen Anne's Revenge, e in tante altre scene dei film. In ogni mondo si riscopriranno ovviamente in chiave tutta nuova i set resi celebri dalla saga. Grande! Hai vinto! Disney Universe è consigliato a chi vuole ritrovare i vecchi giochi a piattaforma e condividerli con i propri figli. Benvenuto nel nuovo, migliorato Disney Universe! Il riposo del guerriero. Sono arrivate moltissime risposte ancora. Per la quarta clip era Monsters Echo, l'incontro della segretaria Rose, che poi si scoprirà avere in realtà un altro ruolo, e Wazowski. Tra l'altro io considero Monsters Echo il capolavoro in assoluto di Pixar insieme a Wall-E. Non saprei quale scegliere, sono due film molto diversi, ma sono davvero due capolavori, guardateli se non l'avete fatto. Ultima clip per altri due biglietti per andare ad assistere a vedere la mostra 25 anni di Pixar al PAC di Milano. Ehi, piccoletto! fatta! E tu che volevi attraversarla sul fondo? La chiamerò Giuggiola e la terrò sempre con me. Sarà la mia piccola Giuggiola. Vieni qui, Giuggi. Vieni qui, piccola Giuggi. Vieni qui, piccolo, piccolo, picci, picci, picci. Au! Dory! Quella è una medusa! Cattiva, Giuggi! Sei cattiva, Giuggi! Ciao, vai via! Straordinario il personaggio appunto di Dory, di che film stiamo parlando? 349-238-6666. E voglio ricordare che oggi è la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e ci sarà allora una maratona di lettura per l'UNICEF proprio questa sera all'Elfo Puccini. Siamo a Milano, una serata importante, ci saranno anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, Roberto Bolle, Lerner, Don Gino Rigoldi, Malika Ayane, Claudia Mori, Claudio Biso, Lino Manfi e tanti altri, per cui se volete andare all'Elfo Puccini questa sera, appunto perché questa è la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E a proposito di questo, io ho al telefono Stefano Gastaldi. Ciao Stefano, buona giornata. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Stefano, è il direttore dell'associazione Casa Amica On Loose. Ci spieghi brevemente Casa Amica di cosa si occupa, visto che appunto parliamo di bambini. Sì, Casa Amica è un'associazione che ha 25 anni di storia e si occupa di dare risposta al bisogno di accoglienza legato al fenomeno della migrazione sanitaria, cioè tutte quelle persone, quelle famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia a Milano per curarsi negli istituti di eccellenza della nostra città. Quindi al dramma, spesso ovviamente al dramma della malattia dei figli, si aggiunge anche il fatto di voler assolutamente essere vicino a loro e non poterselo permettere. Quindi voi date la possibilità anche gratuitamente di poter vivere a Milano in quel periodo, insomma durante la degenza, esatto, dei propri, esatto, figli. Abbiamo Sì, scusami, avete in attivo 4 case accoglienza. 4 case e l'ultima appunto è quella che abbiamo dedicato in modo specifico all'accoglienza dei bambini e dei ragazzi malati e delle loro famiglie. L'abbiamo inaugurata lo scorso 15 marzo, anche se è stata un'apertura parziale perché riguardante il primo piano è 8 camere delle 12 previste complessivamente, per cui ecco siamo un po' in questa fase di sviluppo del progetto. Allora, il 24 di questo mese si svolgerà una serata particolare, si chiama Cena Magica, e è una serata per raccogliere fondi ovviamente per questo progetto, una serata non soltanto magica, dove ci saranno tra gli altri anche Raul Cremona, ma una serata dove si gusterà una cena straordinaria perché arriveranno degli chef a cucinare, chef straordinari per la verità, che avrete a disposizione. Sì, esatto, è un'occasione importante per noi sia per far conoscere la nostra associazione e il bisogno a cui cerchiamo di rispondere e sia anche appunto per raccogliere fondi per completare un po' l'ultimo miglio, che così possiamo definire, l'ultimo sforzo per completare la nostra casa per i bambini. E questo è stato disponibile grazie davvero alla disponibilità di questo gruppo di chef di assoluta fama nazionale. Ecco, quindi se volete partecipare alla serata e quindi conoscere anche Casa Amica meglio, il sito è questo, www.casamica.it, e la cena è per il 24 di questo mese a Milano. Grazie Stefano Gastaldi, grazie per quello che fate, buona domenica, ciao. Arrivederci. Abbiamo parlato di chef prestigiosi, sono gli chef e gli amici della cucina che appunto prepareranno la cena per quell'occasione, e continuiamo a parlare di cucina. Forse, perché intanto stavo guardando se le risposte dell'ultima clip sono arrivate. Sì, sono arrivate. E come? Eccolo qui, è appena entrato. Il gastronauta. Ciao Davide, buona giornata, buona domenica. Buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori. È uscita la guida ai ristoranti del Sole 24 Ore, presentata ovviamente dal gastronauta, ovvero Davide Paolini. Allora, un po' di novità di questa guida, tra le quali anche i ristoranti vicini alla stazione. Sì, perché ogni anno, diciamo, mi invento un simbolo nuovo, proprio perché questa guida non dà voti, ma è una guida che sempre più sta diventando una guida di servizio, nel senso che diciamo do tutte delle indicazioni che di solito non vengono date dalle altre guide. Il treno significa dei ristoranti vicino alla stazione, questo perché? Perché ultimamente il problema diciamo dell'etilometro, il problema del guidare sempre meno è diventato importante e allora sicuramente magari in paesi di provincia dove c'è il treno è molto utile, uno può arrivare magari non so a mezzogiorno in treno, mangia molto bene e risale sul treno, se ne torna a casa senza prendere taxi o d'altro. È evidente che nelle grandi città ci sono dei ristoranti vicino al treno, magari un giorno arriveremo a mettere anche quelli vicino alla metropolitana, quindi sempre più di servizio. E volevo anche così ricordare che un altro simbolo che sta avendo molto successo è quello che io ho chiamato dietro al banco. Cosa significa dietro al banco? Significa quei luoghi che possono essere stati gastronomia, macellerie, panetterie, dove si comincia a fare dei piatti e poi piano piano, magari in qualche giorno a settimana o 4-5 giorni, si diventa ristorante. Devo dire che questo simbolo è nato un po' di anni fa, è stata una scoperta ed ora vedo che tutti stanno andando su questa direzione, perché addirittura un noto giornale italiano nazionale domenica e sabato ha fatto un paginone su questo. Peccato che non abbia messo quelli più interessanti e più importanti, però vedo che qualcuno ci sta copiando. Ecco, questo ci fa piacere, soprattutto a te e a noi ovviamente. Davide, c'è qualche riconferma che vuoi citare? Visto che tu tra l'altro hai anche proprio un simbolo che è caramba che sorpresa, che sono i locali che anche nel tempo continuano a confermare la propria qualità. No, un momento, cioè caramba che sorpresa vuol dire che per il primo anno entrano nella guida, sì, e sono stati una sorpresa, nel senso che fino allora erano sconosciuti e magari uno dei miei ispettori in giro per l'Italia lo ha scoperto. E devo dire che questo è successo in Calabria, a Strogoli, in provincia di Crotone, con il ristorante di un'azienda vinicola che è in un bellissimo posto del Settecento. E addirittura il giorno dopo, alla presentazione della nostra guida del Sole 24 Ore, questo ristorante è stato premiato con una stella della Michelin e quindi abbiamo anticipato di un giorno, e devo dire che questa è proprio caramba che sorpresa. Assolutamente sì. E qualche sorpresa invece per te, magari inaspettata quest'anno, qualcosa che sì, ti ha... c'è stata una sorpresa che io ho definito, a me mi piace, con sì, l'occhiello del mio articolo sul Sole 24 Ore, e con questo significa che c'è magari un posto dove ti senti più a tuo agio, dove c'è un'empatia particolare, e non è detto che sia un grande ristorante, non è detto che ci sia un grande cuoco, però il sentirsi bene molte volte passa sopra anche magari dei piccoli difetti può avere il ristorante. Quest'anno io l'ho dato a un locale che non ha niente di tutto questo, non ha difetti, un locale straordinario che è a Mazzorbo, in questa isola della laguna, e dove c'è questa chef che è tornata alla ribalta dopo anni, che si chiama Paola Budel, si chiama Venissa. E devo dire che in questo posto veramente magico, in questa isoletta dove non ci sono macchine, non c'è rumore ed altro, questo locale diciamo è perfetto, ed è anche perfetta la sua cucina, perché si basa su tutte le erbe, i frutti, i prodotti della laguna e anche i pesci. Quindi quest'anno è stato per me il locale che più di ogni altro mi ha dato emozioni. Ecco, se gli vuoi segnalare anche un extra large, perché è molto spesso si ha il preconcetto, il pregiudizio che un ristorante molto grande non abbia una buona cucina, perché così si pensa, ma spesso, cioè a volte non è vero invece. Ma guarda, ce ne sono diversi, e vorrei ricordare una riflessione fatta da un grande ristoratore che è Silvio Maccioni di New York, che mi diceva sempre: è facile fare da mangiare al massimo con 25 coperti, con un menù degustazione che non si può cambiare. È molto difficile fare per 200 persone con un menù molto largo. Bene, di questi locali ti posso segnalare Nonna Sceppa a Pestum, davvero incredibile, c'è un posto straordinario dove si mangia in maniera eccellente con tanti coperti, ma anche l'Enoteca Marcucci a Pietrasanta, perché anche lui ha tantissimi posti d'estate proprio sulla strada, eppure riesce ad avere un servizio abbastanza efficiente e con una discreta cucina. È quello che quest'anno io ho premiato come ristorante extra large. Ecco, senti, l'ultima è una curiosità: perché i ristoranti vicino alla stazione si devono trovare al massimo a 1,7 km dalla stazione, non tipo a 2? Bah, guarda, questo l'abbiamo calcolato. Sì, l'abbiamo calcolato. Perché erano troppo lontani, oppure questa era la distanza? No, sinceramente ti dico che abbiamo fatto una media. Ah, ok. Abbiamo fatto una media perché, cioè, l'abbiamo calcolati con il navigatore. E devo dire che il navigatore non sempre è perfetto. E poi abbiamo fatto una media e sicuramente ci sarà qualche imperfezione, ma speriamo sempre di più di dare appunto la massima precisione. Stiamo già pensando al prossimo anno di aggiungere nuovi simboli, ma non te le dico perché. No, certo, deve essere una sorpresa per l'anno prossimo. Intanto volevo anche così, in qualche modo, complimentarmi, congratularmi con chi ha inventato il simbolo di vicino alla stazione, perché è rappresentato da una locomotiva e il fumo è una forchetta piegata ed è molto carino. Quindi complimenti a chi l'ha inventato. Diciamo che i nostri grafici sono bravi. Stati molto bravi, infatti. Sono quindi bravi. Ogni anno gli do dei simboli un po' particolari. Questo è molto carino, bravo. Quello è facile, ma dietro al banco o a me mi piace è molto difficile. Però questo è anche particolarmente creativo, devo dire. Quindi davvero complimenti. La guida sarà disponibile dal 24 novembre in libreria, ovviamente a €19,50. Grazie Davide. No, ti dico anche che è in vendita anche online. Basta andare sul sito di Ed Agricole, che è la società appunto di Bologna che fa parte delle Sole 24 Ore, che diciamo si occupa della commercializzazione, quindi si può trovare online e costa anche meno. Mi sembra che costi €17,50. Ecco, vabbè, insomma, qui abbiamo aggiunto ancora un pezzo. Grazie ancora, ciao Davide, presto, buona domenica, ciao. Tra poco giochiamo con il mistero in 24 minuti. Vi ricordo il numero per prenotarvi, ovviamente la risposta per quanto riguarda l'ultima clip di Pixar è arrivata, è stata di Alla ricerca di Nemo, questo è il film. E il numero di telefono, scusate, il numero verde per partecipare tra poco al mistero in 24 minuti, 800 24 0024. Il riposo del guerriero. Siamo pronti a giocare con il nostro mistero. Un mistero in 24 minuti. Questo è il tempo che, come sempre, avete a disposizione per arrivare alla soluzione, che può essere una notizia della settimana, un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Il numero verde è 800 24 0024. Si parte da €1,000 da spendere su libreriarizzoli.it e io vorrei riuscirveli a regalare questa settimana. Speriamo. Voi ascoltate gli indizi, perché a volte vi fermate a 2 o 3, perché è vero che il premio scende, però c'è la possibilità anche più vicina di portarselo a casa. Vediamo se ce la facciamo questa settimana. Ecco il primo indizio. Già mi sento solo, la mia nave parte, mi allontano piano, io si riavvicinano le mie paure. Speriamo almeno che sia calmo il mare, così mi potrò dormire. Eccolo qui, Fabio Concato della nave. Questo è il primo indizio per Gianna, la provincia di Treviso. Ciao Gianna, buongiorno. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo €1,000 sul tavolo e dobbiamo decidere che cosa fare, anzi devi deciderlo tu. Io mi butto dalla nave. Secondo me è un personaggio. Allora ti lancio immediatamente il salvagente, vai Gianna. Per me è un personaggio ed è Zapatero. Grazie Gianna, ciao, buona domenica. Ciao, voi, voi sapete che la risposta non la si scoprirà fino allo scoccare del 24esimo minuto. Paolo da Parma, ciao, buona giornata. Ciao Stefano, ciao. Ciao, ciao Paolo, eccoci qui. Allora, abbiamo ancora €1,000 per te. Io chiedo secondo indizio. Allora scendiamo a 500 oggi con quella che io definisco la più bella canzone che abbia mai scritto Alberto Fortis, una delle più belle canzoni che siano mai state scritte da qualcuno, da un italiano. Eccola qua. Il suo posto lo trovi nella ruota del giorno, nello scrigno privato di egoismi e di abusi e le mani affrettate a cercare i gioielli nella sabbia han trovato confuse relitti. Eccoci qui Paolo, questo era L'uomo di notte di Alberto Fortis. Com'è il titolo? L'uomo di notte. Dunque, vabbè, questa, ma io avevo delle probabili risposte, questa ma completamente spiazzato, dico quello che pensavo prima, cioè che la prima partita di basket del campionato universitario americano che hanno giocato sulla nave dove hanno fatto il funerale di Osama. Grazie Paolo, buona domenica. Ciao, grazie. Grazie. Massimiliano da Roma, buona giornata. Buongiorno. Ciao Massimiliano, siamo a due indizi, siamo già a 500 euro, il premio sì. Si è dimezzato. Ma cosa vuoi fare? Provo a dare una risposta. Anche diciamo. Tu? Sì. Vai Massimiliano. La notizia di maternità della principessa d'Inghilterra. Sì. Per me è questa la cosa. C'è la principessa. No, ho capito, stavo cercando di, perché io poi cerco sempre di capire come mettete insieme gli indizi. E non è che non è che sia proprio semplice mettere insieme questo. Questo è un segreto. Ah, è un segreto anche per te, però, e quello è il problema. Esatto. Ciao Massimiliano. Esatto. Grazie, buona giornata, ciao. Bello, no? Che sia tutto criptico, anche perché gli dà la risposta. Massimiliano da Napoli, ciao, buona giornata. Massimiliano da Napoli, pronto? Non c'è più, l'abbiamo perso. Anna da Como. Ciao Anna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Anna, anche Massimiliano prima diceva non lo so come ho messo insieme le cose, non spiega neanche lui. Tu cosa vuoi fare? Vuoi un indizio? Io ho avuto lo stesso pensiero suo. Sì. Perché la canzone parla di essere di una persona incinta, quindi siccome Kate Middleton adesso pare che lo sia, avevo pensato anch'io questo. Ma c'era anche il primo indizio però, Il primo indizio alla nave, vero? Sì, è proprio così. La nave non mi ha portato da nessuno. Vuoi sentire un altro indizio? Vuoi dare una risposta? Cosa vuoi fare, Anna? Non so. Facciamo la cosa più banale, la caduta di Berlusconi. Che non c'entra niente, solo il fatto che è di Milano è Concato e di Milano Berlusconi. Grazie Anna. Berlusconi, salve. Buona grazie giornata. Anna, buona giornata. Ciao. E andiamo avanti, Luigi dalla provincia di Pisa. Pronto, buongiorno. Ciao Luigi. Buon ciccia. Allora, ecco. Cosa vogliamo fare? Abbiamo ancora degli indizi qua per te, Sì, ma io no, tu dai la risposta, ho una risposta che mi cova, il varo del governo Monti. Eccolo là. No, perché sapevo che sarebbe arrivata questa risposta. Certo, comunque sia la banalità è questa. Guarda, qualunque indizio, ecco, avessi messo, sicuramente questa risposta sarebbe arrivata. Assolutamente sì. Grazie Luigi per essere stato tu. Buona giornata, ciao. Grazie tanto. Augusto da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ciao Augusto. Buon allora, buondì. Io ho letto in questi giorni la notizia dell'inaugurazione a Genova al Museo del Mare. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Va così almeno tanto per. La mia nave parte, mi allontano piano. Io si riavvicinano le mie paure. Piroette di sabbia e le guglie del Duomo. La nave di Fabio Concato e il Duomo di notte Alberto Fortis. Allora, Augusto, stavi dicendo? Stavo dicendo che la notizia dell'apertura della sezione al Museo del Mare di Genova delle Memorie e Migrazione. Grazie, la nave. Grazie Augusto, buona giornata, ciao. Okay, grazie. No. Elena, buongiorno. Salve. Ciao Elena, tu sei sulla buona strada o vuoi un altro indizio? No, io penso di essere sulla buona strada. Allora, volevo dare il nome di un personaggio. Sì. Silvio Berlusconi. Grazie Elena, buona giornata. Grazie. Un mistero in 24 minuti. Continuiamo con il nostro mistero, un po' di risposte sono state date, ma solo solo due indizi ascoltati. Massimiliano di Napoli, eccolo, è arrivato, è tornato. Massimiliano. Forse da, Ecco, quando... forse da Ascoli? Ah, forse da Ascoli, è per questo che allora non mi rispondevi. Allora, vabbè, sei tu, vabbè. Caro Massimiliano, sei tu, scusaci. Allora, io dico la notizia sulla class action effettuata da non so quale, relativa ai traghetti del... insomma, la class action su delle linee di traghetti che... ecco, no, adesso ho capito. Grazie Massimiliano, okay. Grazie Massimiliano, contro una società di trasporto navale. Milena da Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Milena, ma io qua ho tanti belli indizi qua, non vi piace ascoltare gli indizi? Ma, niente. Guarda, a me questi due indizi che avete dato hanno fatto venire in mente il discorso di Monti alla Camera e al Senato. Primo per il... quando ha parlato di far ritornare i cervelli in fuga all'estero, farli tornare in Italia, e il secondo quello che ha detto sulla maternità, agevolare lavoro e maternità e donne. Grazie Milena, buona giornata. Grazie a voi. Sarebbero, ciao. 500 euro per te. Sapete cosa mi ha molto colpito di oggi? Il fatto che abbiate colto il testo di una canzone che non è affatto facile, e che è Il Duomo di Notte di Fortis. Vabbè, è una cosa curiosa, perché è un testo che bisogna ascoltare e riascoltare per cogliere il suo senso. Silvia da Firenze, buona giornata. Sì, buongiorno. Ciao Silvia, buongiorno a te. Cosa vogliamo fare? Io vorrei provare a rispondere. Anche tu, va bene. Allora, ascoltiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. La mia nave parte, mi allontano piano, io si riavvicinano le mie paure. Piroette di sabbia, le guglie del Duomo. Eccoci qui, Silvia. Allora, a me è venuto in mente la notizia di una donna che ha partorito in mezzo al mare su un, credo, un gommone o insomma un mezzo di fortuna. Quindi secondo te è questa la potrebbe risposta? Potrebbe essere questa. Ok, grazie Silvia. Grazie, arrivederci. Allora, andiamo avanti, vi ricordo il numero 800 24 00 24. Vediamo chi abbiamo. Un attimo soltanto che... Silvia da Firenze, ce l'ho appena avuta, scusate, perché abbiamo un aggiornamento sul monitor per sapere chi è in onda e non lo so. Va bene, allora devo aspettare, eccolo qua. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Ok, allora abbiamo due probabili vincitrici. Anna da Como, ciao Anna, buongiorno. Buongiorno. Ed Elena da Cremona, ciao Elena. Salve. Adesso io vorrei sapere chi delle due sarà la vincitrice. Allora, Anna da Como ha risposto la caduta del governo Berlusconi. Dico bene, no, di Berlusconi, dico di Berlusconi proprio perché cantava sulle navi e ho collegato le due cose. Certo. E invece, Milano e le navi. Sì, quindi dici la caduta di Berlusconi. Elena invece ha detto Silvio Berlusconi, il personaggio. Chi è che avrà vinto? Adesso io però voglio capire. Dividiamo. Questo non lo so. Siamo contente tutte e due. Dovete mettervi in contatto, ovviamente, per capire. Potrebbe anche essere un'idea, perché no? Siamo anche vicini a Natale, si potrebbe fare. La vittoria è di Elena. Anna. Vabbè, niente. No, sai perché sono arrabbiato, Anna? Te lo spiego subito. Perché tu l'hai buttata via quella risposta. Nel senso, nel senso che hai detto, ma sì, potrebbe, però non c'entra niente. In realtà, e poi c'entrava tutto. Hai detto esatto. E le quindi navi, Milano. Io credo, esatto, era proprio così. Le navi, perché Silvio Berlusconi. E per le navi cosa c'entrava con la caduta di Silvio Berlusconi? Era proprio perché il fatto lui aveva cominciato a fare l'intrattenitore sulle navi da crociera. Quindi era proprio il personaggio. Io credo, Anna, che con la tua risposta un po' buttata via abbia aiutato Elena. Vediamo se ho ragione. Elena, è così? Sì, in un certo senso sì. Bene, sono perché contenta. Avresti, cosa avresti? Sento la voce di una ragazza giovane, per cui sono felicissima. Ci fa piacere. Elena, non so, magari mettetevi d'accordo, non so, di questi 500 euro da spendere su libreriarizzoli.it, non so, dalle 100 euro, regalale un libro, fai qualcosa, vi metteremo in contatto. Allora datele il mio indirizzo, che il libro lo regalerò al mio nipotino Natale. Va bene, Anna, grazie. Grazie a voi, siete simpatici, domenica partecipo ancora. Ma sicuramente, grazie Anna. Elena, complimenti, insomma, poi hai visto che sei stata in qualche modo aiutata. Tu avevi un'altra risposta in serbo prima? No. Ero partita comunque con quest'idea, poi... Avresti, cioè, poi ti ha confermato l'altra risposta, quella di Anna, per dirti che poteva essere questa. Grazie ancora, Elena. Complimenti, 500 euro per te. Buona giornata. È tutto per quanto riguarda il riposo del guerriero. Ovviamente, l'appuntamento è per domenica prossima con una nuova puntata. L'argomento lo scoprirete leggendo la nostra pagina di Facebook, che è quella appunto legata al riposo del guerriero. Mi scuso, anzi, con le persone che hanno utilizzato e scritto su Facebook oggi, ma le cose da raccontare erano tantissime e non sono riuscito quindi a vedere la pagina. Vi ricordo ancora invece dal 23 di questo mese, da mercoledì quindi, al PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea di Via Palestro a Milano, Pixar, 25 anni di animazione, è la mostra con la quale siamo partiti oggi. E in più voglio dire alle persone, agli ascoltatori che hanno mandato gli sms con le risposte per le 5 clip che abbiamo fatto ascoltare e che saranno chiamati i 5 vincitori per avere poi le modalità per ritirare i 2 biglietti per la mostra. Grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Stefania Tagliaferri e Paolo Corleoni in regia. Grazie a voi per l'ascolto, ci sentiamo domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini.